Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tempo tre giornate in testa alla classifica. Ci sono già le due squadre destinate, secondo una scuola di pensiero ampiamente maggioritaria, a giocarsi il titolo. Ma il risveglio delle grandi però è generale. Aveva cominciato la Roma sabato sera, sia pure con un primo tempo di grandi incertezze, anche di amnesie. Ha finito ieri sera il Milan con la miglior prestazione in assoluto vista fino a qui nelle prime 30 partite di campionato, anche perché di fronte c'era una Lazio di cui sono certo sentiremo ancora parlare, una Lazio che si è arresa soltanto a gioco lungo, ma che per tutto il primo tempo e nonostante tutto le fosse girato storto ha mostrato un valore forse ancora superiore a quello che si era visto nelle prime due partite vittoriose. Dopodiché si delineano anche le caratteristiche delle cinque grandi squadre. Per esempio la Juventus è soprattutto pratica e lo confermano i 3-1-0 in una settimana. L'Inter è soprattutto potente, oltre che molto ben organizzata. La Roma è ancora fragile emotivamente, ma un po' alla volta, recuperando i suoi titolari, sta ritrovando il gusto di giocare a quella sua maniera. La Fiorentina non è ancora semplicissima da decifrare. È più complesso il discorso sul Milan e più avanti lo faremo insieme, perché una prestazione come quella di ieri sera è tra l'eccellente e lo straordinario. Il dubbio è se il Milan l'abbia interpretata come una partita di campionato, come una di coppa. Io sono quasi più della seconda scuola di pensiero, perché l'intensità, la concentrazione, la rabbia sono ingredienti che questo momento particolare del Milan richiedeva, ma che in genere il Milan in questi anni ha sempre tirato fuori nelle serate dei martedì o dei mercoledì più che della domenica, e quindi bisognerà vedere la continuità. Dopodiché mi pare ci sia una sesta squadra che sta andando al di là delle aspettative più rose, è quella sempre attesa al varco con maggior attenzione, anche con maggior prevenzione, ed è quella degli arbitri. A dispetto dei moviolisti in agguato, mi sembra che gli arbitri se la stiano fin qua, nelle prime tre giornate, se la stiano cavando molto, ma molto meglio di come per esempio era cominciata e poi era anche proseguita l'annata scorsa. Aspettando i vostri consueti interventi del lunedì per questa sorta di forum che siamo abituati a fare ormai da tanti anni, all'800240024 cominciamo con il riassunto vocale di un fine settimana, vi ripeto, ricco di spunti. Il commento di Carlo Ancelotti. Abbiamo cercato di giocare con più giocate in verticale per gli attaccanti, abbiamo chiesto più movimento agli attaccanti, sfruttare più tutto il fronte d'attacco, e credo lo hanno fatto molto bene. Insomma, abbiamo fraseggiato di meno rispetto al solito e giocato più palle in verticale. Borriello ha caratteristiche importanti, è un giocatore che gestisce molto bene anche le palle lunghe, Inzaghi è molto più bravo nella profondità, però sono tutti e due giocatori importanti. Quando saranno tutti e due a disposizione è chiaro che la soluzione ideale è quella. Però Borriello e Inzaghi ci sono stati poco in questo periodo per vari motivi, quindi dovremo cercare anche soluzioni alternative. Noi siamo una squadra con vocazione offensiva, qualche cosa rischiamo dietro, credo che oggi siamo stati anche più attenti, l'unico diciamo pecca che abbiamo avuto, perché poi dopo c'è anche la bravura della squadra avversaria, e la Lazio ha tanta qualità perché è una squadra che gioca molto bene. L'unica pecca è stato sul gol subito, e ci siamo trovati scoperti su un calcio d'angolo a nostro favore. Fino a qui Carlo Ancelotti, che per ritrovare il suo Milan, forse persino superiore alle attese, alle speranze della vigilia, ha dovuto però, e questa non è una critica, a mio parere è ancora un merito maggiore, ha dovuto operare delle scelte drastiche e per esempio rinunciare alla campagna acquisti, schierata gloriosamente in panchina con la sola eccezione di Zambrotta. In panchina c'erano non soltanto Ronaldinho e Shevchenko, ma anche Flamini, nonostante l'assenza di Pirlo, che tra l'altro si porterà per almeno un paio di mesi se basteranno. E quindi questo vuol dire che da un punto di vista ambientale qualcosa è successo, qualcosa di molto significativo. La testimonianza è quel lungo abbraccio tra Seedorf, che è forse il leader attuale della vecchia guardia, e Ancelotti al momento della sostituzione, e sono tutti tasselli che testimoniano di quale travaglio ci sia stato in queste settimane intorno al Milan, ma sono anche forieri poi di sviluppi ambientalpolitici, perché questo credo sia inevitabile che accada. Un breve commento di uno dei protagonisti della serata. Cacallo è diventato a gioco lungo, per la verità, perché mi sembra che inizialmente non fosse lui uno dei trascinatori del Milan. Poi a partita incanalata in una certa maniera ci ha messo le sue ciliegine, alla fine poi forse, senza forse, è risultato tra i migliori. Cacà. Stasera abbiamo fatto molto bene, servirà come esempio per le altre partite. No, è molto bello giocare con loro perché sono i miei connazionali, ma giocare in questa squadra di grandi campioni così, con Clarence, Ambrosini, Maldini, diciamo tutti quanti, è molto molto bello, divertente. E ora, scrive Simona Rossi, spero che Milan si rimonti la testa pensando di essere grande, nel derby faccio giocare Shevchenko e Ronaldinho. Un'impressione che Simona Rossi sia di estrazione interista, mentre Marione Scalia da Milano domanda: è un caso se l'ottima prestazione del Milan coincide con l'esclusione dei due botti di mercato? No, in questo momento certamente non è un caso, poi può essere che un po' alla volta Shevchenko e Ronaldinho vadano in forma e questo sarebbe in questo caso un ulteriore valore aggiunto. Ma ripeto, la grande partita di ieri sera comunque è stata tale anche perché le scelte sono state drastiche in partenza e, ripeto, nonostante anche l'assenza di Pirlo, che rende il tutto ancora più significativo. Vi dicevo dell'impressione lasciata dalla Lazio. Un primo tempo secondo me eccellente, a parte eccellente tutta la partita nel suo complesso, la migliore vista fino a qui in campionato in assoluto. Ma per l'intero primo tempo mi pare proprio che la Lazio abbia fatto, non dico qualcosa più del Milan, ma quasi, e si è arresa a un colpo della domenica di Zambrotta. Dico della domenica perché Zambrotta, lo ricavo al Corriere dello Sport, aveva segnato l'ultimo gol in Serie A il 18 ottobre del 2003. Ora è vero che da fine 2006 giocava in Spagna, però insomma non si può dire che Zambrotta sia un giocatore prolifico, è un giocatore di grande rendimento, di grande velocità, poi non è da scoprire oggi, ma prolifico certamente no. Quindi quel colpo, quindi ancora di più il colpo iniziale di Seedorf, insomma, che non credo, che ha chiesto un triangolo a Ledesma, in altre parole, e Ledesma involontariamente gliel'ha ridato, ma insomma sono quelle cose che succedono di rado. D'altra parte anche l'Inter ieri ha avuto una circostanza favorevole sul primo gol. Anche la Roma sabato sera stava balbettando quando Panucci ha messo in porta da due metri su un errore gravissimo della difesa avversaria, della regina, e poi da lì tutto si è sbloccato. Insomma, qualche segnale è ancora abbastanza contraddittorio. Sentiamo il primo ascoltatore di oggi che ha chiamato da Milano ed è Giorgio. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Garantini. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Ieri abbiamo visto un Milan bellissimo e penso che io sono juventino, premetto, però sono sportivo. Sì. Premetto che Ancelotti ha la sua testa di dire mando giù la mia formazione, e quando lui decide forse magari i risultati vengono, guarda ieri. Allora io dico, ma gli alti dirigenti del Milan che hanno acquistato e ci sono in panchina due o tre palloni d'oro, non è uno spreco al calcio italiano? Ma sono stati anche presi a prezzi di saldo, sì, che insomma, è uno spreco relativamente. Se parliamo di Quatrini, Sheva credo che sia in prestito gratuito, qualcosa del genere, e il Milan alla voce Shevchenko può ancora rubricare un attivo spaventoso, perché credo che rifilò Shevchenko al Chelsea per 45 milioni di euro, una somma più o meno simile. Ronaldinho è costato 20 milioni, che nei prezzi del calcio di oggi è venuto via per poco da un certo punto di vista. Altrove hanno preso un'ala che al momento, e parlo di Quaresma, che al momento non mi sembra un giocatore determinante dello scacchiere, l'hanno pagato mi pare 25 milioni di euro. Se la mettiamo sui quattrini, è tutto il calcio di oggi, perlomeno il calcio di vertice, che non ha senso. E quindi cosa vuole? Poi se mi vuol dire che non è stato Ancelotti a fare il mercato, beh, insomma, questo più o meno l'avevamo capito. Sentiamo il commento di Delio Rossi. Sicuramente non fa piacere perdere. Abbiamo giocato una partita e dopo 10 minuti che anche tatticamente non eravamo proprio a postissimo, avevamo equilibrata anche a metà campo. Penso che il terzo gol l'ha chiusa, perché se dai campo aperto questi giocatori ti ammazzano. Però siamo stati in partita per larghi tratti e abbiamo sbagliato nella fase di transizione in uscita palla, dove loro nelle ripartenze ci hanno fatto male. Noi siamo una squadra che se farà bene, farà bene in toto, non ci sarà un reparto che farà meglio dell'altro, neanche oggi, perché ci sono stati degli errori, ma io guardo a monte, nel discorso finale ci sta, perché giochi con una squadra che ha tanta e tale qualità, e quindi gli errori sono messi in preventivo sotto questo punto di vista. Diciamo che dobbiamo lavorare, ma questo lo sapevamo sotto questo punto di vista. Di sicuro nella Lazio hanno, almeno personalmente, mi hanno molto impressionato certi automatismi in velocità nella prima fase della partita, anche nella fase di rimonta, perché poi dopo 7 minuti la Lazio era già in svantaggio. Disinvoltura, palleggio, qualità, per non parlare di quella di Zarate. Adesso non vorrei esagerare, perché dopo la cotta per Arshavin agli europei, insomma, forse è il caso di andarci un po' pianino con i giocatori, con certi giocatori, e aspettare qualche controprova. Certo che la velocità di base di Zarate, la sua proprietà di palleggio, la sua facilità di calcio lasciano intravedere, insomma, un giocatore di dal possibile grande futuro. Mi piacerebbe sapere, domanda a Sergio da Milano, cosa pensa di Mourinho. Penso che sia un discorso difficile che andrà fatto più avanti. Difficile perché quando si eredita una squadra che viene da due campionati vinti consecutivi, dico due perché il terzo è una vecchia storia, credo che non sia facilissimo trovare i termini di paragone veri. Non mi sembra che fino ad ora ci sia si veda qualcosa di così profondamente diverso in campo rispetto all'Inter dello scorso anno, meno che gli ultimi 3 mesi, intendiamoci, che quella era un'altra Inter molto più negativa. Quello che mi sembra molto interessante è il rapporto che ha costruito con alcuni giocatori, a cominciare da quello con Adriano. Poi bisognerà vedere quanto dura, indubbiamente, ma al momento quello che Mourinho ha fatto con Adriano e il modo in cui Adriano lo ha ricambiato sul campo, per esempio ieri a Torino, è molto ma molto molto significativo, in senso ovviamente positivo. A proposito di suggestioni, c'è un solo allenatore per ora a punteggio pieno in campionato, ed è Ballardini, ed è l'allenatore del Palermo, che è subentrato dopo la prima giornata e poi ha vinto contro la Roma e contro il Genoa, e tra l'altro mi pare abbia cambiato, proprio rivoltato come un guanto il Palermo, non solo come rendimento, ma proprio anche come disposizione, anche da un punto di vista estetico e di qualità del gioco. Lo dico dallo scorso anno, dall'esperienza di Cagliari, che Ballardini è uno da tenere molto molto presente. Sentiamo Giuseppe da Verona, buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Caranzini, complimenti con la trasmissione per la sua pacatezza. Sì. Senta, una cortesia molto veloce, io sono tifoso juventino. Le volevo però chiedere un parere relativamente, la vedo ogni tanto quando va in trasmissione lì a Pallalunga e Pedalare, la vedo qualche volta quando presenzia, volevo sapere un parere sulle due compagini veronesi, sono un po' simpatizzante, l'Elas e il Chievo, due parole veloci, la ringrazio e l'ascolto in linea. Ma molto veloci, Giuseppe, perché capita una volta l'anno, quando in occasione tra l'altro di Vinitaly, cioè c'è la gita a Verona istituzionale, c'è la visita a Osvaldo Bagnoli e ad altri amici veronesi di antica data, attualmente non succederà mesi, quindi cosa vuole che sappia io? Del Verona Cal, dell'Hellas assolutamente nulla, del Chievo quello che si vede. Il Chievo ha dimostrato anche ieri, a parer mio, in una partita indubbiamente difficile, di saperci stare in Serie A, perlomeno è un augurio che faccio al Chievo, per cui ho un debole da vecchia data, di saperci stare per quella rialza, perché è chiaramente inferiore alla Sampdoria, perché era andato in svantaggio, ma nel momento difficile ha trovato la forza, il guizzo per rimettere subito il risultato in asse, e mi pare che questa sia una qualità non da poco. Da Milano, Ivan, buongiorno. buongiorno signor Terazzini. Dica. Io chiamo da Milano ma sono di Palermo, volevo parlare un attimo del Palermo. Allora, la prima cosa che volevo chiedere, una curiosità più che altro, su De Melo, perché non ho mai visto una roba del genere, un giocatore acquistato e subito venduto ancora prima del campionato, magari a gennaio è successo, però all'inizio non so, mi sembra che non è mai successo. E dopo su Ballardini in parte già un po' risposto, però volevo dire che cioè, Zamparini tante volte le azzecca, diciamo, anche sotto Vulcanica, e l'ultima era dove poteva arrivare secondo lei il Palermo. La ringrazio, l'ascolto per l'altro. Dunque, dopo le prime cinque che sappiamo, sicuro, e poi se la giocherà con... Se la giocherà credo con Napoli e Lazio, principalmente Udinese direi per le posizioni di rincalzo, ma anche la Sampdoria in teoria, mi sembra che più o meno le gerarchie possano essere quelle, cioè Inter, Juventus, Milan, Roma e Fiorentina in prima fascia e una seconda fascia in cui io credo che ci siano Napoli e Lazio in pole position nella seconda fascia, ma certamente Sampdoria, Palermo e Udinese possono essere competitive e se la mano di Ballardini dovesse continuare a incidere in questa maniera, magari questa pole position di una seconda fascia potrebbe toccare al Palermo. Per salire più su bisogna che una delle grandi deluda al di là delle aspettative, quindi non credo che sia poi particolarmente possibile. Torniamo a sentire qualche voce della domenica. Vale sempre la pena di sentirla, perché certamente banale non lo è. La voce di Mourinho. Ah, io penso che una partita sono 90 minuti, non sono periodi di 30, di 20, di 10. È molto difficile di essere dominatore e di giocare bene durante 90 minuti. Questo è molto molto difficile, principalmente quando si gioca contro una squadra ben organizzata, con un allenatore senza paura di giocare, che ha giocato sempre con tre giocatori davanti. Penso che è molto difficile avere il controllo totale della partita, no? E penso che di un modo globale si può dire che l'Inter è stata la squadra più forte, ha segnato tre, poteva segnare uno o due di più. Ovviamente Torino, giocando a casa, ripeto, con un bravo allenatore, con giocatori di qualità, ha fatto il suo lavoro e dopo ha avuto un periodo in cui ha ovviamente giocato meglio di noi, ha segnato un gol che è sempre una motivazione forte per una squadra. Penso che il dottor Moratti paga bene a Giulio per non per essere di vacanze nella porta, no? E lui è stato di vacanze durante 75 minuti, dopo 15 minuti del fine ovviamente che ha fatto una parata importante per noi. Questo era Mourinho. Negli ultimi 20 minuti ha detto invece stamani De Biasi, allenatore del Torino, abbiamo preso a pallate il portiere dell'Inter, e quindi sono come sempre i punti di vista che divergono prima, divergono durante e divergono anche dopo. Io mi limito a osservare che prendere a pallate il portiere avversario sullo 0-3 insomma, in genere non è il massimo di quello che si può provare a combinare in una partita. Tocca credo ad Andrea dalla provincia di Milano. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti per una trasmissione, l'ascolto sempre volentieri. Grazie. Senta, mi considero un tifoso atipico, visto che tifo Atalanta e Napoli, i due capi opposti del nostro bel paese. Volevo chiedere a lei una considerazione in merito alle esternazioni del presidente del Napoli le settimane passate, quando gli sono state bloccate le curve per gli ultra, per i fatti. E la considerazione è questa: l'Atalanta c'è già passata più di un anno fa e il presidente Ruggeri spesso mise alla porta i tifosi più facinorosi. In settimana il Napoli ha dimostrato che non ha bisogno dei tifosi più intransigenti, perché fa 60.000 persone allo stadio quando c'è una partita di Coppa e non è da poco. Volevo chiedere da lei se non sia la strada giusta questa di punire severamente anche le società quando hanno questo tipo di tifoserie. Assolutamente sì, Andrea, sono d'accordo con lei. Non sono d'accordo quando lei usa la parola intransigenti, perché è un concetto positivo, invece questi sono farima, ma sono delinquenti, quindi non c'entra assolutamente nulla. Ruggeri lo scorso anno, per la verità, dopo qualche tentennamento nelle stagioni precedenti, aveva preso una posizione durissima contro gli ultra, e temo purtroppo che siano state proprio le vicende di quelle settimane a causare quello che poi è successo, quello che gli è successo sul piano della salute, e che lo vede tuttora impegnato in una battaglia molto difficile, tant'è vero che la società, a dirigere la società è stato chiamato il figlio. Anche De Laurentiis ha avuto qualche tentennamento, forse qualche caduta di stile per disinformazione iniziale, però mi sembra che poi la strada imboccata sia stata ben diversamente coraggiosa, se è vero che il Napoli si è costituito parte civile contro gli ultra identificati e responsabili di una serie di violenze. Questa mi sembra che sia un segnale inequivocabile. Da Torino, Francesco, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, non è anche caso di ripeterlo perché tanto è una cosa ormai di tutti i giorni. Volevo dire, per il Milan di ieri, la partita che ho visto, ho notato una cosa diversa rispetto ad altre volte, il fatto che tutti i giocatori si aiutassero tra di loro e che pressassero tutti contemporaneamente, infatti uno o due gol sono scaturiti anche proprio dal fatto che hanno recuperato la palla. Ieri hanno giocato proprio da squadra in Milan, rispetto ad altre volte sia col Genoa che con Bologna, che hanno preferito giocare più sulle individualità singoli che invece sul collettivo. Io sono del parere comunque, se il Milan, poi volevo sapere anche il suo, se il Milan dovesse continua così su questa strada a giocare da squadra, aiutandosi l'un con l'altro, farà molta strada. Volevo sapere il suo parere. Il mio parere è quello, evidentemente, poi non sarà facile perché i solisti sono tanti e perché il Milan è tuttora una squadra costruita mentalmente per le coppe, cioè tuttora credo che questa sia una caratteristica che non è semplicissima da rimuovere e da alternare, da dosare a seconda dell'impegno che c'è. Il Milan è una squadra da grande classica, no? Il vecchio paragone col ciclismo, da Milano-Sanremo, da campionato del mondo, da Parigi-Roubaix, non è una squadra da Giro d'Italia o da Tour. Per prestazioni come quelle di ieri ho l'impressione che forse spenda anche di più, perché non è così connaturato. D'altra parte, quando ci riesce, i risultati si vedono, non so, vedo qua dei messaggi, Giorgio, il recupero di Gattuso e Boriello, che ha giocato anche da terzino, sono il segreto della vittoria di ieri sera, ma è verissimo, cioè la grinta, il sacrificio, la disponibilità a giocare, a muoversi e a correre quando la palla agli altri, non soltanto quando l'hai tu. Marco, Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io invece volevo fare una domanda in merito a Nesta. Si dice che è determinante, che è importantissimo per la squadra, ma non si ha mai l'esatto rientro. Quando si pensa realmente che questo giocatore possa essere disponibile? Marco, è una domanda che girerei a Milan Lab. Un tempo c'erano delle prognosi, insomma, un tempo un giocatore si faceva male e più o meno nel giro di un paio di giorni si sapeva per quanto ragionevolmente poteva averne. Oggi le varie leggi sulla privacy che vengono applicate in maniera ferrea in questi casi, e come è noto invece con qualche lacuna e qualche tolleranza su argomenti assai più serie, su materie assai più serie, no. Quindi sinceramente, se chiede a me, qual è la prognosi di Nesta, non glielo so dire. Al massimo la posso ragguagliare sulla prognosi dei mercati di oggi. Ottima osservazione in un SMS firmato Omar Bologna. La prova che gli arbitri stanno facendo bene è data dagli interventi pacati degli ascoltatori che intervengono il lunedì alla sua trasmissione senza reclamare due rigori alla volta. Come un tempo. È vero, in queste prime tre giornate hanno disinnescato loro le polemiche, veleni assortiti, le solite, il campionario a cui eravamo così ben abituati. Questo non vuol dire che abbiano smesso di sbagliare, però vuol dire che stanno sbagliando molto, ma molto meno che non in passato, e sono soprattutto più credibili. Gli arbitri, a proposito delle partite di dopodomani, perché mercoledì sera alle 20:30 si ricomincia. Allora, Atalanta-Cagliari Stefanini, Bologna-Udinese Mazzoleni, Chievo-Torino Girardi, Genoa-Roma Brighi, Inter-Lecce Bergonzi, Juventus-Catania Pierpaoli, Lazio-Fiorentina De Marco, Napoli-Palermo Rocchi, Regina-Milan Saccani, Siena-Sampdoria Tommasi. Tocca a Domenico da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Io mi associo alla considerazione che ha appena fatto l'ascoltatore di prima sugli arbitri, mi capitava di guardare Fiorentina, Lione-Fiorentina, e non posso che dire che gli arbitri italiani davvero sono una spanna sopra gli altri. Però la mia domanda era un'altra, ed era una considerazione più che altro. Volevo sapere da lei, secondo lei il giornalismo sportivo italiano non ha qualche responsabilità nell'alimentare o deprimere modelli di gestione del calcio più o meno virtuosi? Faccio un esempio su tutti. Quale sarà lo stato d'animo di un tifoso del Palermo in confronto a un tifoso della Fiorentina se la propria squadra viene gestita nella maniera in cui viene gestito il Palermo da Zamparini, che è diventata davvero una macchietta con allenatori che vanno, vengono, direttori sportivi, che non si capisce il perché. Allora, l'incidenza, perché eravamo partiti, mi pare, dalla stampa sportiva, invece adesso siamo ai presidenti. Non riesco a capire qual è il modello negativo e qual è il riverbero da chi arriva. Io dico, si dà troppo poco risalto a modelli di gestione di squadre di calcio, modelli positivi. Io immagino il modello Fiorentina sia in termini di immagine che ha assunto adesso la squadra a livello internazionale, la cura, l'attenzione verso il fair play, verso l'educazione in campo, la beneficenza e quant'altro, e si dà molto più risalto a quelle situazioni che magari fanno ascolto, fanno audience, perché sono piene di polemiche, piene di cose dette e non dette, e immagino allo Zamparini di turno, vabbè Domenico, insomma, entro certi limiti è così, però il giornalismo in genere è così, non si occupa, io non credo che lei apra un quotidiano, ma non sto parlando di sport in questo caso, sto parlando di tutto e sto parlando e sto dicendo anche storicamente, non credo che lei apra un giornale per trovare le buone notizie, credo che le buone notizie non si pubblicano, cioè se tutti attraversano sulle strisce e nessuno passa col rosso e ti tira sotto, è la norma e quindi non finisce sul giornale. Se c'è un ubriaco che invece li stiamo leggendo e sentendo questi episodi in continuazione, ma sto facendo un esempio a caso, allora quello finisce sul giornale. Diverso è questo per quello che riguarda il diritto, anzi il dovere di cronaca, che è un capitolo. Poi il fatto di seguire o di valorizzare o di sottolineare modelli positivi che diventino di riferimento anziché negativi, ma questo fa parte delle scelte libere di ciascuno. Io credo che un tifoso della Fiorentina oggi sia più fiero di essere tifoso della Fiorentina di quanto non lo sia il tifoso di un'altra squadra, di un'altra società, o di quanto non fosse un tifoso della Fiorentina in epoca Cecchigori, faccio per dire, indipendentemente anche dai risultati, ma queste sono valutazioni che aspettano ai singoli o alle singole tifoserie in questo caso. Un attimo di pazienza all'ascoltatore già collegato, perché abbiamo parlato di Fiorentina e allora sentiamo su questo Fiorentina-Bologna cui la squadra di Prandelli ha fatto un po' più di fatica forse di quella che aveva messo in preventivo per venire a capo di questa partita. Sentiamo il commento di Prandelli, per l'appunto. Abbiamo un po' sofferto nel primo tempo, eravamo un po' troppo passivi, però nel secondo tempo siamo entrati in campo per fare il secondo gol, abbiamo avuto tre palle secondo me importanti. Poi è chiaro che quando non chiudi la partita fino all'ultimo puoi soffrire per qualsiasi situazione, però la squadra è stata in campo con la giusta determinazione, abbiamo accorciato bene, anzi a volte eccessivamente, siamo andati in area di rigore con tanti giocatori. Ci è mancato il raddoppio, la squadra mi è piaciuta, sì. Gli è piaciuta e d'altra parte era già reduce da una partita in cui gli era piaciuta anche di più, che era quella di Lione, dove la Fiorentina avrebbe davvero meritato l'impresa. Un ascoltatore scrive, Massimo mi pare, a Seniga, dice: è iniziata la fanfara per il Milan, si può dire che con un altro portiere la Lazio non avrebbe preso 4 gol? Ma non lo so se si può dire sinceramente, perché il tiro di Zambrotta non mi pare assolutamente parabile, anche perché non mi sembra minimamente prevedibile. Ripeto, Zambrotta non segnava da non so quanti anni nel nostro campionato, e quando arriva a quella distanza dalla porta è improbabile che tiri, e tantomeno che vada a prendere il 7 con quella con quella potenza. L'avvitamento di Pato non mi sembra che desse margini. Kaká, quando tira quella maniera, ci si deve al cappello. Il primo gol non discuterei nemmeno, perché oltretutto un triangolo assolutamente casuale, fortuito con Ledesma, non può autorizzare un miracolo successivo del portiere, se poi oltretutto Seedorf gli prende il 7. Quindi non sono assolutamente d'accordo. Antonello ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, io sono un tifoso della Juventus. Sì. Volevo da parte sua un pochettino un giudizio o una risposta sulle domande adesso che le vado a fare. Credo che la Juve sia un pochettino sottovalutata dalla critica in generale. I giornali ne parlano un pochettino poco, a parte chiaramente Tutto Sport di Torino. Credo che ieri sia la partita di ieri sia stata molto significativa, in quanto che la Juve ha vinto con una squadra rimaneggiatissima contro un Cagliari che non era lo stesso la stessa squadra delle prime due giornate, anzi ha giocato molto molto bene. E poi si tende a criticare tantissimo la Juve di questo centrocampo molto fisico. Ci dimentichiamo che ancora deve rientrare un giocatore come Zanetti, che lui sa proporre molto bene il gioco, oltre ad interdire il gioco altrui. Poi non vedo molte squadre, diciamo, che hanno dei creatori di gioco eccezionali, a parte il Milan di Pirlo, forse la Roma di Pizzarro e in questo momento la Fiorentina con Almiron quando gioca. L'Inter non mi pare che abbia tutto questo centrocampo propositivo, anzi molto molto fisico. E quindi dico che credo che insomma tutte queste critiche sulla nel senso che si rimprovera ai dirigenti della Juve di non aver acquistato. Ma sono gli juventini stessi, sono i vedovi, Antonello. Non credo, a me non pare di aver sentito in questo avvio di stagione, è vero che io ascolto il meno possibile, sinceramente, e leggo selezionando, ma non mi pare da parte perlomeno di critici o di osservatori credibili, non mi pare di aver sentito accenti critici nei confronti della gestione, dell'allestimento, diciamo, di questa Juventus. Certamente non è il mio caso. Ogni tanto si sente, gli accenti critici che si sentono arrivano dall'interno della stessa tifoseria juventina, ma insomma lei deve dare il diritto ai vedovi di consolarsi e di farsi una ragione poco alla volta, insomma. Giuliano, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Sì. Io chiamo da Treviso ma sono tifoso del Napoli, premetto. Vorrei fare una domanda non relativa alla giornata di ieri ma più in generale, e sapere, conoscere il suo parere, la sua opinione sul pensiero del presidente De Laurentiis a proposito dell'istituzione di un campionato europeo per club. Lui parla di 6 gironi da 20 squadre, comunque del superamento di un campionato nazionale che, visto anche l'affollamento dei calendari che portano alcuni giocatori a giocare addirittura 50 partite all'anno, non sia proprio la cosa anche un po' più... una cosa, ecco, possibile, ecco. Vorrei sapere che cosa ne pensa lei. Giuliano, e poi volevo aggiungere soltanto in coda che sono... Volevo aggiungere solo in coda che sono d'accordissimo con lei su Ballardini e sono molto preoccupato per il mio Napoli per la partita di mercoledì. Beh, ma non gioca Ballardini però, guardi che al massimo può aver dato una raddrizzata al Palermo, però non si preoccupi che Ballardini in campo non va. Preoccupiamoci sempre dei giocatori. Io fossi stato nel Torino ieri non mi sarei preoccupato tanto di Mourinho, mi sarei preoccupato di più di Maicon, per dire. Avrei trovato il modo di pensare all'inizio che giocare con il tridente contro l'Inter significa suicidarsi, a parer mio. E poi invece ho sentito l'allenatore dire alla fine che il Torino ha preso a pallate l'Inter sullo 0-3 proprio perché l'Inter si era fermato, no? Quindi vabbè, ma quindi vede che poi tutto è opinabile. Non conosco sinceramente i progetti di De Laurentiis su un futuro campionato europeo, ma è anche vero che non mi occupo molto di cinema, mi occupo per il momento di pallone. Il ripasso di storia, affidato come sempre a Nicola Filippone, di 24 minuti e in collaborazione con 24 minuti, vi ricordo, la Free Press pomeridiana del Sole 24 Ore in distribuzione a Milano e a Roma. Sentiamo. Sembra ieri. 22 settembre 1927. al Soldier Field di Chicago ci sono oltre 100.000 persone ad assistere al tentativo di rivincita di Jack Dempsey contro Jean Tunney. In palio c'è il titolo mondiale dei pesi massimi che Tunney aveva strappato a Dempsey l'anno prima a Filadelfia. Alla settima ripresa Dempsey stende l'avversario, ma l'arbitro, prima di cominciare il conteggio, impone a Dempsey di raggiungere l'angolo più lontano del ring. La discussione dura alcuni secondi, preziosi per Tunney, che si rialza al 9 e riprende a combattere dominando i rimanenti round. Il verdetto dei giudici gli consente di conservare il titolo. La rabbia e la delusione per l'esito di quello che passerà agli annali come il match del lungo conteggio indurranno Dempsey al ritiro. Campione del mondo dal 19 al 26, Dempsey è stato uno dei simboli dello sport statunitense negli anni 20. E questa era davvero storia in questo caso, perché stiamo parlando, insomma, ci ha rievocato Nicola Filippone un episodio che appartiene forse addirittura alla preistoria dello sport. Domanda un ascoltatore: ma che fine hanno fatto gli Acqua Fresca e i Giovinco? Non capisco, soprattutto se in una partita come ieri, senza De Piero e Trezeguet, questo ragazzo era in panchina. Beh, insomma, evidentemente Ranieri non ha ritenuto opportuno inserirlo, probabilmente lo avrebbe fatto sul 2-0. L'Inter non è mai riuscita a raddoppiare, la Juventus non è mai riuscita a raddoppiare. Questo probabilmente significa che Ranieri non si fida ancora così tanto di Giovinco. Devo dire che a me ha fatto più specie non vedere Acqua Fresca in campo dall'altra parte, se non nel secondo tempo. Ascoltiamo. Dunque Zambrotta, vi dicevo prima, non segnava in campionato dal 18 ottobre del 2003, quindi sono la bellezza di 5 anni, e quindi se il portiere della Lazio è stato colto leggerissimamente impreparato da quel tiro, che peraltro secondo me è imparabile, insomma, credo che sia anche abbastanza normale. Aldo ha chiamato da Roma, buongiorno. Salve, complimenti per la trasmissione. Sì. Sono Angelo, tifoso della Lazio. Vorrei fare un paio di appunti della partita di ieri sera. Il Milan è una grandissima squadra e noi capiamo sempre al momento giusto per fare la vittima sacrificale. Però io con i miei amici avevo scommesso su una terna di arbitri, uno tra Rossetti, tre Foroni e Rizzoli, e ho vinto una bella cena. Poi secondo me ha arbitrato un po' scientificamente. Sempre a noi c'è stato massimo di punizioni a 37 metri di distanza. Poi non mi è parso Zambrotta, come ha detto lei, non segnava da tempo addietro. È colpa di Rizzoli questo? Il gol è stato, diciamo, fortunato, e poi noi abbiamo giocato 9. Secondo lei che voto gli darebbe a Ledesma e Mauri? Un'altra cosa, se mi consente, rispetto alla risposta, giustizia per Gabriele Sandri. Grazie a lei. Grazie a lei. Che risposte vuole che le dia? Ho già detto prima che la Lazio non finisce certamente qua, non finisce con quella sconfitta di ieri sera, per quanto pesante sia stata. Ha reagito molto, ma molto bene a un primo svantaggio casuale. Ha anche avuto due o tre situazioni, due o tre occasioni in cui comunque se l'è giocata alla pari col Milan nel primo tempo, e poi all'inizio del secondo tempo ha un po' alla volta mollato. Sentirei un'altra voce per introdurre altri interventi, altri commenti, che è quella dell'allenatore del Napoli, direi. I ragazzi hanno lottato, ci siamo difesi bene perché chiaramente in inferiorità numerica a un quarto d'ora dalla fine l'Udinese ha spinto, però noi ci siamo difesi con ordine, a parte qualche calcio d'angolo, qualche situazione di palla inattiva, un po' di sofferenza c'è stata, però siamo stati pronti a ribaltare anche le azioni in contropiede, abbiamo avuto anche noi le nostre buone opportunità. Resta comunque un'ottima prestazione. Poi per quanto riguarda il turnover, sai, quando cambi 4-5 non è che trovi immediatamente l'assetto tattico adeguato, tanti giocatori non avevano certamente i ritmi di gara, invece oggi hanno dimostrato di poterci stare, pertanto sono molto contento perché potrò fare affidamento anche in futuro di queste qualità. Ha ragione Reia, per il mio. Il Napoli sta facendo un cammino molto ma molto positivo, ha giocato 3 partite molto difficili, ha avuto il calendario più pesante in assoluto finora tra tutte le squadre. Ieri ha attuato questo turnover, visto che è stato impegnato in Coppa UEFA, ne ha risentito marginalmente, nel senso che l'Udinese avrebbe sì meritato di vincere, ma soltanto in quell'ultimo quarto d'ora, quando è rimasto in superiorità numerica. Poi È vero che nella partita di Udine ci sono stati insomma, gli unici errori arbitrali di giornata, però insomma sino a che si è giocato ad armi pari, cioè sino a che si è giocato in 11 contro 11 era stato più pericoloso e più costante il Napoli dell'Udinese. Ci sono dei guai muscolari per Aquilani, leggo sul display, che quindi è in dubbio per la trasferta di Genova, ma sono state escluse lesioni dagli esami strumentali. C'è in linea Francesco dalla provincia di Viterbo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, anzi buonasera. Allora, ieri quando ho sentito per radio la formazione del Milan ho capito che per Lazio, visto che giocava Seedorf e non Ronaldinho, non sarebbe stata vita facile, e quindi volevo un suo parere, perché io per Seedorf stravedo. Seconda cosa, non vorrei fare come il precedente ascoltatore lamentarmi della decisione arbitrale, quindi sono un attimo, non è un problema. Quello che io non capisco di Rizzoli essenzialmente è perché ha permesso a giocatori tipo Gattuso, grande giocatore, di stricargli addosso tutta la partita. Cioè Gattuso in qualsiasi momento, e Rizzoli l'anno scorso se lo fece fare anche da Totti, gli stricca addosso e lui non prende i provvedimenti. Cioè le decisioni sono un attimo, quelle sono reiterate, quindi può anche pensarci, insomma. Questo era l'unico punto che volevo fare alla giornata di ieri degli arbitri, insomma. Ma è una scelta di tolleranza quella di Rizzoli, che può essere più o meno condivisa. Io non so se la condivida o meno il suo responsabile Collina, immagino di sì, perché se no gli farebbe presente che così non va. Però vede, questa osservazione, quell'altra precedente del tifoso laziale, dimostrano che non c'è nulla, cioè che non c'è nulla a carico degli arbitri sino ad ora, perché insomma, forse ci ricordiamo di quali erano le contestazioni delle ultime stagioni, o comunque normali di un lunedì. Adesso siamo veramente alla quisquiglia, nonostante poi ci siano gli arruffapopoli televisivi che sono in sindrome palese di astinenza da Moviola. Ieri sera al 90° minuto ho sentito annunciare la Moviola di Cagliari Juventus con le testuali parole del bravo presentatore, che diceva: e passiamo alle dolenti note. Dopodiché c'era l'aria furbetta di Carlo Longhi di fianco e ho detto: beh, vediamo cosa è successo. Le dolenti note era che l'arbitro di Cagliari le ha azzeccate tutte, ma assolutamente tutte. Quelle sarebbero le dolenti note. No, quelli sono gli arruffapopoli che evidentemente vedono, temono che gli ascolti possano precipitare se non c'è la polemica o la di giornata, no? ad ogni costo. E questo nonostante questo buon momento arbitrale, che poi non è mica detto che duri, perché magari giovedì mattina siamo qua a fare tutt'altri discorsi dopo il turno infrasettimanale, nonostante sia diminuita la severità, per esempio in area di rigore. Pensate che in queste tre prime giornate sono stati fischiati soltanto 5 calci di rigore, erano 12 un anno fa, quindi c'è un crollo del 60% dei calci di rigore, eppure non per questo ci sono polemiche particolari. Ce ne sono molte in Spagna, perché nel derby di ieri sera di Siviglia tra il Betis e il Siviglia, il Betis sta ospitante nella sua curva, insomma gli ultra del Betis hanno esposto bandiere con svastiche, simboli nazisti scritti inneggianti a Hitler, al caudiglio Franco, eccetera, e oltre alla pesantissima multa, ora la società rischia una squalifica del campo come da precisa normativa della FIFA. Altre disavventure in Sud America, ma non di questo stampo, per fortuna. Il Boca Junior, che ha perso dopo 29 partite la sua imbattibilità casalinga. C'era Peter Bescappè in regia, Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani, Giornale Radio.